399. Petonciani. Il petonciano o melanzana è un ortaggio da non disprezzarsi, per la ragione che non è né ventoso né indigesto. Si presta molto bene ai contorni ed anche mangiato solo come piatto d'erbaggi è tutt'altro che sgradevole, specialmente in quei paesi dove il suo gusto amarognolo non riesce troppo sensibile. Sono da preferirsi i petonciani piccoli e di mezzana grandezza, nel timore che i grossi non siano amari per troppa maturazione. Petonciani e finocchi, 40 anni or sono, si vedevano appena sul mercato di Firenze, vi erano tenuti a vile come cibo da ebrei, i quali dimostrerebbero in questo, come in altre cose di maggior rilievo, che hanno sempre avuto buon naso più dei cristiani. I petonciani fritti possono servire di contorno a un piatto di pesce fritto, fatti in umido all'esso, in gratella alla bistecca, alle braciole di vitella di latte o ad un arrosto qualunque. 400. Petonciani fritti. Sbucciateli, tagliateli a tocchetti piuttosto grossi, salateli e lasciateli stare per qualche ora. Asciugateli dall'umido che hanno buttato, infarinateli e friggeteli nell'olio.